Punto, passiamo dai fumetti e dai racconti avvincenti di fantasia e di invenzioni alla dura realtà di tutti i giorni, le questioni che purtroppo spesso coinvolgono anche ricercatori, persone che magari cercano di capire e di divulgare fenomeni che a volte, anzi troppo spesso, devono rimanere nascosti, devono rimanere nell'ombra. E mi riferisco al fenomeno delle scie chimiche, un fenomeno che, come sapete, Rosario Marciano studia da diversi anni ed è forse il ricercatore importante in Italia ad occuparsi di questo fenomeno. Io gli darei un attimo la parola. Ciao Rosario, ci siamo salutati prima. So che. Ciao carissimo, Ciao, ciao Rosario. approfitto per salutare e ringraziare ancora Giuseppe Di Bernardo, l'ho ascoltato attentamente. Devo dire che mi sono fatto una cultura anche sul fumetto a livello proprio di editing, grazie al suo lavoro. Niente, per tornare a noi, se hai da farmi qualche domanda, fai pure, io sono a disposizione. Ti ringrazio, ti ringrazio. Beh, le domande sono parecchie, soprattutto in questi ultimi giorni, dove abbiamo visto anche il popolo di Facebook attivarsi e sostenerti, diciamo, perché in questo periodo sei sotto attacco, per così dire, da parte dei famosi debunkers, ma comunque da parte di tutte quelle forze che in qualche maniera cercano di ostacolare chi vuol divulgare la verità, ma su questo discorso ci arriviamo tra poco. Io così, per quegli ascoltatori, i nostri ascoltatori conoscono bene la tematica delle scie chimiche, tu ormai qua su Radio UFOcast sei di casa, anche tu sei venuto già diverse volte a parlarci, quindi l'argomento scie chimiche in quella che è la loro natura, le sostanze, eccetera, l'abbiamo già affrontato diverse volte. La maggior parte dei nostri radioascoltatori sanno di che cosa parliamo, però ci sono sempre quelli nuovi, quelli che si mettono all'ascolto. Quindi un focus veloce sulla questione scie chimiche, non tanto per entrare nei dettagli del problema, ma piuttosto per capire di cosa parliamo. Sì, dunque la manipolazione dell'atmosfera parte da lontano, ha origine già con le prime sperimentazioni verso il finire degli anni 40, per poi iniziare in maniera così saltuaria verso la fine degli anni 60, e ci sono sperimentazioni eseguite prima di tutto in Israele, ma poi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, in Germania. Diciamo che gli antesignani per quanto riguarda queste operazioni di controllo atmosferico per scopi diversi che poi posso riassumere sono gli statunitensi che con il beneplacito del governo ovviamente verso la metà degli anni 80 dello scorso secolo hanno iniziato a sprombattuto nel attuare un programma che prevedeva la, come posso dire, la modificazione della nostra atmosfera attraverso la dispersione di particolari elementi chimici, in gran parte metalli, ma si parla anche di esperimenti biologici e ultimamente anche nell'ambito della nanotecnologia. Questi progetti chiaramente sono partiti con obiettivi meramente militari e quindi di controllo ufficialmente detto del clima e quindi usare il clima come un'arma, secondo quelli che sono i progetti dell'aeronautica militare e quindi nel documento che fu pubblicato nel 1995, Dominare il clima entro il 2025. Devo dire che hanno raggiunto e superato la previsione per quanto riguarda l'epoca. E quindi le prime osservazioni sono state fatte da parte di gente di popolazione di alcuni paesi e città che sulla metà degli anni 90, già in Canada e quindi poi negli Stati Uniti, hanno osservato che che il cielo era diverso dal solito, ovvero era attraversato da scie di tipo persistente, che quindi attraversavano l'orizzonte da sinistra a destra per 180 gradi e anche più, e queste scie non si dissipavano, non sparivano, rimanevano delle ore e si allargavano fino a oscurare il cielo. La storia, diciamo, nasce così, nasce con le prime richieste di chiarimenti da parte di cittadini canadesi, precisamente mi riferisco alla cittadina di Espanola in Canada. Ovviamente non ebbero nessuna risposta plausibile dalle autorità, le quali fecero scaricabarile, quindi il sindaco disse che non ne sapeva niente, il governo federale disse che non erano aerei del governo canadese, i militari dissero che non erano aerei loro, e gli americani risposero che non erano aerei loro, e intanto comunque queste scie c'erano e gli aerei passavano. All'inizio si notava che spesso erano aerei di tipo di quelli che si usano come aerei aviocisterne, quindi famosi tankers, aerei per il rifornimento in volo, quindi erano KC-135 e KC-10 in primis, ma col passare del tempo, e questo anche su indicazione di uno scienziato che si chiamava Edward Teller, il padre della bomba atomica, su indicazione di questo scienziato vennero impiegati via via, col passare del tempo, anche aerei di linea, e quindi ora si possono osservare molto raramente aerei di tipo prettamente militare, anche perché altrimenti verrebbe subito il campanello d'allarme e non potrebbe essere più trovata la scusa che sono comunissime scie di condensazione di aerei di linea, e quindi adesso invece si notano aerei che apparentemente sembrano del tutto normali e appaiono come aerei commerciali, nei liners tranquilli e beati, cosa che spesso non sono. Quindi sia i militari sia i civili intervengono con questa manipolazione dell'atmosfera ormai da diversi anni, che è diventata, diciamo, un programma mondiale dal quale sono immuni pochissimi paesi e sempre di meno col passare degli anni. Quindi sono operazioni sovranazionali che non hanno a che vedere oramai solo col governo statunitense, ma sono gestite, coordinate, appoggiate, nascoste, finanziate dai governi dei singoli stati. D'altronde, negli anni, verso la fine degli anni 90, fu firmato un trattato da alcuni stati, e verso l'inizio, mi pare nel 2003, fu firmato anche dall'Italia un trattato che si chiama Cieli Liberi, e che quindi permette ad aerei del nostro territorio di volare sopra il nostro paese, nei nostri cieli, senza piano di volo e senza autorizzazioni particolari. Certo. Questo permette evidentemente di avere un controllo totale dei nostri cieli, sia da parte di aerei locali, sia da parte di aerei di altri paesi. Tra l'altro, su queste questioni, cioè sulla questione appunto di questi aerei e su queste irrorazioni, o comunque su questa attività di sperimentazione di questa tecnologia, diciamo, ci sono state dall'inizio degli anni 2000, credo, 14 interrogazioni parlamentari, 14 interpellanze parlamentari più o meno trasversali, di cui l'ultima è veramente agghiacciante se la andate a leggere, perché il parlamentare che solleva la questione di fronte al governo fa proprio riferimento al bario, all'alluminio, dà indizi su possibili misurazioni che si potrebbero fare nei terreni per monitorare il pH e quindi per andare a dimostrare se è vero o no che c'è questo problema, se è una fantasia dei complottisti, come qualcuno dice, anzi come i media ufficiali o comunque così il CICAP o altre organizzazioni simili liquidano il fenomeno, oppure se veramente il fenomeno esiste. E naturalmente le risposte sono sempre ben diplomatiche, ma piuttosto evasive, o comunque danno una risposta che si regge magari anche in piedi da un punto di vista logico, ma non c'è mai questa volontà di andare veramente a vedere se tutto questo è un inganno di natura complottistica oppure c'è veramente qualcosa che i cittadini, la gente devono sapere. Ho fatto questa piccola premessa per chiederti se è cambiato qualcosa nella consapevolezza della gente ultimamente su questo fenomeno oppure se le cose non sono comunque cambiate più di tanto rispetto agli ultimi 4, 5, 10 anni, perché come ci dicevi è da un po' che la cosa va avanti. Io devo dire che intanto le interrogazioni parlamentari, così come anche la raccolta di filo, lasciano un po' il tempo che trovano, sono strumentali al sistema perché servono a dare lo zuccherino al cavallo, e il cavallo siamo noi, cioè l'interrogazione viene fatta da qualche politico al quale viene permesso di fare un'interrogazione, vediamo per esempio il caso di Scilipoti. Certo. Noi non abbiamo neanche proposto sul nostro blog l'interrogazione parlamentare di Scilipoti, per quanto era stata scritta da altri ed era stata posta nei termini corretti, anche perché avevano utilizzato alcune nostre argomentazioni in maniera pedissequa. Quindi l'interrogazione era ben fatta, però logicamente era stata fatta da un personaggio discutibile da un punto di vista mediatico, e quindi non è casuale che l'interrogazione sia stata fatta fare proprio da Scilipoti per buttare giù la cosa ancora sulla pagliacciata. Non è vero che non ci sono prove, non è vero che si tratta di un argomento di complottisti, perché complottista è già comunque una parola che viene assegnata a coloro che cercano di svelare alcune verità, e quindi è una parola ghettizzante, come anche la parola coniata da Paolo, attivissimo sciacchinista. E vedo che purtroppo alcuni ricercatori e magari anche persone che consapevolmente hanno finalmente avuto l'illuminazione di capire che qualcosa di strano sta accadendo nei nostri cieli, anche queste persone, ahimè, e il lavaggio del cervello purtroppo funziona male, si autodefiniscono sciacchinisti. Questo veramente è drammatico. Non dimentichiamo che per quanto riguarda i programmi dei servizi, dei governi che mirano a delegittimare i cittadini che sono scomodi per il sistema, la parola d'ordine è ghettizzare e soprattutto affibbiare dei termini che diano l'idea che le persone sono fuori di testa. Quindi bisogna andarci un po' cauti. Le prove in effetti ci sono, perché le analisi in quota, come anche le analisi delle acque piovane, come anche i risultati relativi alle analisi che fanno periodicamente alcune ARPA, diciamo alcune ARPA che fanno il loro mestiere e che portano poi alla chiusura dell'acquedotto perché l'acqua è contaminata, guarda caso, da valori incommensurabili di alluminio, bario, manganese, stronzio, uranio e altri metalli che appunto casualmente sono proprio quelli utilizzati nelle attività di aerosol. Queste sono prove, perché chiaramente qualsiasi cosa viene lanciata in aria poi ricade al suolo per effetto gravità. Per cui no, non è possibile dire ci sono quantitativi enormi di manganese, di silicio e di litio, bario e alluminio nell'acqua piovana e ci vengono a dire no, ma non c'è una dimostrazione che quei metalli vengono dal cielo. E allora da dove vengono? Questo già è anomalo. Poi comunque detto questo, come accennavo prima, negli Stati Uniti alcuni voli sono stati fatti e quindi dei prelievi in quota sono stati eseguiti. Il problema, come al solito, è quello dell'ufficialità, siccome sono stati eseguiti da ricercatori indipendenti, che anche qui, tanto per ghettizzare e dare l'idea dello stupido, i disinformatori legati al CICAP definiscono i ricercatori indipendenti dei ricercatori indipezzenti, quindi anche qua vediamo che anziché tirare fuori argomentazioni con prove mirano sempre all'insulto. Allora, questi ricercatori indipendenti hanno eseguito delle analisi in quota, hanno mostrato i dati, li hanno presentati alle varie commissioni e la cosa è finita lì, chiaramente, perché non ha il crisma dell'ufficialità. In Italia sarebbe lo stesso, se chiunque di noi si alzasse la mattina, prendesse un aereo e con la sua bella spugnetta andasse a fare un prelievo in quota, gli riderebbero in faccia, perché direbbero: beh, non hai utilizzato le apparecchiature idonee, non c'era un notaio, non c'era un avvocato, non c'era nessun tecnico dell'ARPA, per cui queste analisi non servono a niente e i valori che hai ritrovato sicuramente non sono corretti perché le analisi sono sbagliate. Quindi è inutile andare a sprecare del tempo, anzi lo stesso, alcuni ricercatori, adesso non faccio nomi, comunque ci sono alcuni ricercatori che si sono occupati di nanoparticelle, hanno sempre detto che intorno ai poligoni sono andati a fare dei prelievi e quindi per logica conseguenza, se vi sono se c'è presenza di nanoparticolato e di uranio impoverito intorno ai poligoni, è evidente che questo uranio impoverito e il nanoparticolato arriva dai poligoni. Non è che questi ricercatori sono andati direttamente nei poligoni a fare i prelievi perché non gli viene permesso, non è che questi ricercatori sono andati col naso dentro alla ciminiera dell'inceneritore per vedere se il nanoparticolato degli inceneritori arriva da lì. Sono andati nelle zone circostanti, hanno valutato la presenza di nanoparticelle nell'aria e quindi per logica conseguenza, se queste nanoparticelle sono estremamente in quantità elevata intorno agli inceneritori, sarà l'inceneritore che produce queste nanoparticelle. Quindi noi diciamo, se questi elementi che ogni sera ricadono sotto forma di nebbia e che ogni pomeriggio e mattina si vedono sotto forma di nebbia, queste nebbie che ci spacciano per nebbie dovute ad umidità elevata, se questi prodotti ricadono al suolo, evidentemente sarà anche sufficiente fare delle analisi del terreno, delle analisi delle piante, basterà fare un mineralogramma per quanto riguarda la presenza dei metalli catturati e assorbiti dal nostro organismo, quindi basta fare un esame del capello, che appunto viene definito mineralogramma, per evidenziare che abbiamo noi assorbito quantità veramente notevoli e preoccupanti di metalli pesanti. Chiunque di noi può farlo e può avere la prova indiretta che qualcosa che non va esiste. D'altronde è vero che qui in Liguria non ci sono poligoni militari, eppure ci sono giovani che si ammalano di malattie tipiche dei reduci delle guerre nel Kosovo, in Iraq e in Afghanistan, malattie derivate dalla presenza di nanoparticelle metalliche nel fegato. Allora, queste nanoparticelle metalliche, se non vengono dai poligoni, da dove vengono? Se un malato è uno studente, è una studentessa, non ha mai fatto il militare, come mai questo paziente assume talmente particolato metallico nel proprio organismo per acquisire malattie che di solito fino a 10 anni fa erano tipiche dei reduci di guerra? Certo. Anche questi sono ragionamenti che basta fare. Non è complottismo, sono verità assolute. D'altronde lo possiamo vedere anche osservando il cielo. Se il nostro cielo non è più quello descritto dai manuali di meteorologia di 15, 20 o 30 anni fa, se le nostre nuvole, quelle normali descritte nei comuni atlanti geografici di 30 anni fa, non ci sono più, allora qualcosa è cambiato nel nostro cielo. Certo. Nel nostro cielo, infatti, il nostro cielo è manipolato, l'attività di aerosol clandestina mira alla eliminazione della nuvolosità naturale perché dà fastidio ai satelliti e ai radar di ultima generazione, per cui noi abbiamo quelle cosiddette giornate serene, soleggiate, descritte dai meteorologi di regime, nelle quali non c'è la presenza di una nuvola che fosse una. Perché non c'è? Perché vengono distrutte da questi elementi igroscopici, questi metalli pesanti, che abbassando i livelli di umidità, facendoli precipitare a valori ridicoli, distruggono la nuvolosità normale. Ma questo è un aspetto estetico che però poi va tradotto in un aspetto di danno all'ambiente e di danno alla salute umana. Danno all'ambiente in quanto l'alluminio acidifica i terreni e quindi uccide le piante. E l'alluminio è neurotossico e quindi uccide le persone, ma prima di ucciderle le fa ammalare di malattie neurotossiche, quindi Alzheimer, Parkinson, SLA, sclerosi multipla e via discorrendo. È questo il risultato della manipolazione climatica, che tutto è tranne che scie di condensazione. Certo, ne abbiamo parlato tante volte con te, abbiamo, credo nell'ultima puntata che abbiamo fatto assieme, abbiamo proprio affrontato gli aspetti delle patologie conseguenti a questa attività di aerosol clandestino. Io ti voglio invece far parlare di un'altra questione che avevo richiamato anche in apertura di trasmissione, no? Di questo paradosso nel quale spesso la realtà supera la fantasia, e mi riferisco appunto alle conseguenze che tante volte si hanno nel voler seriamente affrontare un lavoro di ricerca e di divulgazione di un fenomeno che è bene per gli interessi, per le agende, diciamo, di chi governa il mondo, rimanga nascosto, ed è bene che le persone rimangano inconsapevoli di tutto quello che gli accade attorno. E mi riferisco appunto a quello che ti sta accadendo adesso, cioè al fatto che sei stato tu che hai fatto tante denunce, che hai cercato anche di batterti attraverso le vie legali, in realtà tu da poco sei stato iscritto al registro degli indagati, sei in pratica inquisito per un qualche cosa che ti viene attribuito. Di che cosa? Raccontaci un po' questo episodio, perché so che ha mobilitato il popolo di Facebook e veramente è stato anche, diciamo, bello, consentimi questa infelice espressione in questo contesto, ma è stato bello che tante persone ti siano anche state vicine. Questo a me è piaciuto, perché dimostra che forse qualcosa sta cambiando. È poco, ma qualcosa sta cambiando. Parlaci un po' di questa vicenda, Rosario. Sì, c'è stata molta sensibilità al problema, e anzi rispondo alla tua domanda che mi avevi posto per poi affrontare questo argomento. E quindi io posso osservare, posso notare con soddisfazione che nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultimo anno, vi è stato un incremento notevole della sensibilizzazione da parte della gente su questo argomento. Persone che prima non lo conoscevano, non ne conoscevano l'esistenza, adesso sono molto sensibili e quindi attive anche, che questa è la cosa più importante. Si sono costituiti diversi comitati in giro per l'Italia, e quindi gli attivisti a loro modo, ognuno cerca di apportare il suo contributo con le capacità che ognuno può avere, e quindi su questo sono soddisfatto, perché comunque è vero che è difficile raggiungere la massa critica, che è quella che ci vorrebbe in questi casi per giungere a delle soluzioni radicali, però comunque dei passi avanti sono stati fatti. E come logica conseguenza, che cosa succede quando un problema comincia a diventare un problema serio e di alto livello per il sistema? Ecco che il sistema tira fuori quegli strumenti che normalmente sono gli unici strumenti attivabili prima della soppressione fisica del soggetto, o della possibilità che questo soggetto venga addirittura messo magari con la camicia di forza. E quindi il sistema migliore che usa il nostro amato governo, come anche quelli che si sono che lo hanno preceduto, perché non è che cambia niente, i governi sono solo degli attuatori, non sono i decisori, hanno deciso evidentemente di far funzionare la macchina della giustizia a loro modo. È vero infatti che io insieme a mio fratello dal 2006 ho sporto una serie di denunce e di esposti, inizialmente proprio per segnalare il problema delle attività di aerosol. Mi sono recato già nel 2007 su appuntamento dal capitano del nucleo operativo ecologico dei carabinieri a Genova, insieme a un amico che quindi faceva anche da testimone. Non abbiamo sortito alcun risultato. Poi si è, diciamo, attivata sulla rete un'operazione di discredito e diffamazione e dileggio tramite alcuni mercenari che operano e che all'inizio erano quattro gatti, adesso sono decine e decine, direi sicuramente più di un centinaio, che operano in maniera molto tecnica 24 ore su 24. Faccio un esempio: sul blog strekerenemy.blogspot.com, co-gestito da Paolo Attivissimo del CICAP, il quale ne è l'intestatario. Ho dato uno sguardo recentemente, sono stati pubblicati qualcosa come una media di 1600 articoli al mese. 1600 articoli al mese, dei quali logicamente una buona parte sono stati copiati, semplicemente per poterli poi commentare liberamente, e quindi il commento libero significa insultare, diffamare, pubblicare dati personali, raccontare storie di vita privata inventate e romanzate, e questo logicamente mi ha portato a cominciare dal 2007 fino ad oggi, direi fino a pochi giorni fa, a sporgere una serie di denunce e querela, che non conto più, saranno una decina forse, delle quali non si è mai saputo niente. Chiarisco che nelle denunce è sempre stata richiesta la comunicazione da parte del magistrato se costui aveva intenzione di archiviare, perché ricordo che se il magistrato archivia e non avverte colui che ha sporto denuncia, querela, il quale può opporsi nel termine, mi pare, di 20 giorni, è un reato penale e il magistrato rischia addirittura l'arresto. Ciononostante non è successo niente, quindi le denunce o non sono state archiviate, ma comunque sono state messe in naftalina, oppure sono state archiviate e in questo caso è stato commesso un reato. Fatto sta che alcuni personaggi molto attivi, che tra l'altro sono residenti qui in zona e sono stati avvicinati apposta, si sono ritenuti lesi nella loro maestà e hanno cercato di proteggersi le spalle facendo delle controdenunce. Guarda caso, il magistrato in una di queste denunce ha ritenuto possibile procedere nei miei confronti per reato di diffamazione, mentre c'è un'altra richiesta di archiviazione, sempre con indagato Marciano Rosario, per diffamazione e stalking, richiesta di archiviazione alla quale la controparte, e si parla sempre di questi soggetti che risiedono qui in zona, la controparte ha chiesto, cioè ha fatto opposizione. In questo caso la controparte è stata avvertita della richiesta di archiviazione da parte del magistrato, quindi c'è una disparità di uso della giustizia e degli articoli del codice di procedura penale che mi pare estremamente evidente e che io farò notare al magistrato nel momento in cui lo incontrerò. Tra l'altro questi personaggi, forti della loro impunibilità in questi anni, continuano in maniera tranquilla a diffamare, a screditare, a prendere per i fondelli, a pubblicare fotomontaggi di vario genere, quindi questi personaggi hanno ottenuto quello che volevano, cioè Marciano viene indagato e viene processato per diffamazione, e questo logicamente nei piani del sistema ha un obiettivo, cioè aveva un obiettivo, quello di segarmi le gambe, di mettermi nell'angolo, di chiudermi nel cantone e non nel canton Ticino dove risiede Attivissimo, e quindi chiaramente mettermi fuori gioco. Tra l'altro la controparte ha chiesto anche la chiusura del blog Tankerenemy, guarda caso, e la chiusura di tutti i blog adesso collegati. Quindi mi pare evidente che qui il nocciolo della questione sia, anziché andare per esempio a procedere contro persone che da anni pubblicano centinaia di articoli con temi diffamatori, di ingiurie, calunnie e via dicendo, questi cosa fanno? Processano il sottoscritto. Vuol dire che mi dovrò difendere, ma la miglior difesa di solito è l'attacco, quindi io farò presente al magistrato tutte queste manchevolezze da parte del sistema, e se poi il magistrato vuole andare avanti vuol dire che dovremo occuparci non solo della diffamazione supposta di questi soggetti, ma dovremmo occuparci di geoingegneria clandestina se il magistrato avrà piacere di parlarne. Se non avrà piacere di parlarne, allora vediamo come deciderà. vedremo come andranno le cose. Certo. Io per parte mia ho la coscienza pulita, perché chiaramente anche nel caso specifico io in un articolo avevo definito il blog di questa persona in un certo modo, che secondo me è un dato di fatto e quindi non era una diffamazione. Poi vedremo, vedremo. Di più non posso dire, perché logicamente il procedimento è in corso. Certo, certo. Quindi sono le classiche reazioni, la cosiddetta macchina de fango, per così dire, che serve, e l'abbiamo vista tante volte in azione anche in Italia, anzi soprattutto in Italia, perché l'Italia è un paese che, dove sembra questo meccanismo funzioni meglio, insomma. E paradossalmente vediamo i delinquenti con i reati prescritti, che sono tranquillamente liberi di continuare a perpetrare i loro crimini, e le persone serie ed oneste che stanno cercando di fare un lavoro di ricerca e comunque tra mille difficoltà, perché di questi tempi è difficile portare avanti ricerche in proprio, non solo per il genere di ostacoli di cui stiamo parlando adesso, ma anche perché la situazione economica, lavorativa, eccetera, di ognuno di noi non è delle più facili, e quando ti trovi nello stato d'animo di dover affrontare anche delle vicende giudiziarie, oltre a tutto quello che è l'effetto a livello di immagine, a livello di considerazione che ne consegue per quanto riguarda la comunità grande o piccola con la quale uno interagisce, sicuramente questa cosa debilita sia moralmente che economicamente. Ma io, dai pochi messaggi, scusa Rosario, che ho letto, anzi no, dai tanti messaggi direi che ho letto, ci sono anche persone che ti vogliono aiutare, persone che capiscono che c'è anche bisogno di un contributo economico per quella che è la tua causa. Io li invito a farlo attraverso il tuo sito, o comunque mettendosi magari in contatto con te. Credo di non sbagliare se dico che in questo momento, oltre che dell'appoggio morale che ti diamo tutti quanti, hai anche bisogno di qualche piccolo aiuto economico, insomma. Scusa se mi sono permesso di dire questa cosa, ma è una verità che va comunque affrontata. No, hai fatto bene, anzi ti ringrazio. Sì, certamente è vero che io vado a testa alta, perché non ho assolutamente commesso nessun fattaccio, quindi sono sicuramente sicuro di quello che ho fatto, mi sono comportato sempre onestamente, ho cercato di difendermi, perché chiaramente in tutti questi anni la macchina del fango, come dicevi tu, ha procurato non pochi danni da un punto di vista economico e del lavoro, perché ho perso un sacco di lavoro, e quindi poi alla fine i danni collaterali sono stati notevolmente elevati, però certamente da un punto di vista economico un dibattimento, cioè un processo che prevede tre fasi di giudizio, quindi primo grado, secondo grado e Cassazione, chiaramente comporta delle spese non indifferenti, soprattutto alla luce della modifica di legge da parte del governo Monti per quanto riguarda le tariffe legali. Quindi sicuramente il problema economico sussiste. Io posso approfittare di ringraziare ufficialmente tutti quegli amici che fin da subito in maniera generosissima si sono dati da fare e hanno contribuito spesso in maniera cospicua per poterci dare una mano ad affrontare le prime spese che appunto si affrontano in queste circostanze. Quindi sono state tantissime persone che hanno dimostrato solidarietà, e non solo solidarietà, ma l'hanno concretizzata anche con dei contributi che possono sicuramente essere utili per mandare avanti il procedimento. Quindi detto questo, io comunque sono tranquillo, poi i nodi verranno al pettine, perché devo anche dire che queste schegge impazzite forse hanno fatto male i loro calcoli, perché è vero anche che in Germania hanno fatto la stessa cosa, alcuni attivisti sono stati messi sotto processo con l'accusa di nazismo, e quindi il sistema lavora sempre allo stesso modo, ti mette sotto processo, cerca di stroncarti in questa maniera qua, soprattutto cercando di debilitarti da un punto di vista del morale. Io devo dire, siccome conosco bene come funzionano queste cose, non sono demoralizzato, sono sicuramente seccato perché devo dire che comunque me lo aspettavo, cioè sapevo che prima o poi sarebbe successo perché c'è sempre qualche ingenuo che decide di procedere contro un soggetto che potrebbe anche far scoppiare il bubbone, perché non si illudano che un processo per diffamazione rimanga relegato a questo singolo supposto reato, perché bisogna andare a vedere poi perché è stato scritto quel determinato articolo, chi c'è dietro le persone che hanno cagionato la pubblicazione di questo articolo, delle ricerche, delle indagini che abbiamo dovuto eseguire da soli, perché avevamo chiesto l'intervento della polizia postale, ma non è assolutamente accaduto nulla, e quindi siamo stati lasciati in balia di questi folli. Quindi devo dire che quando poi ci sarà procedimento, probabilmente saremo noi a divertirci, e non loro che adesso stanno festeggiando e vanno in giro. Gli stessi che adesso fanno parte offesa vanno in giro a scrivere sui blog, sui forum, nome, cognome, indirizzo, Marciano Rossario indagato. Si scordino che queste cose qua adesso si stanno divertendo, ma poi ci divertiremo noi. Certo, ma io vorrei venire anche a condividere con i nostri ascoltatori il motivo che ha scatenato così la loro reazione così drasticamente forte rispetto al solito, insomma, perché prima si limitavano magari ad insultarti o, come ci dicevi, a scrivere montagne di roba sui loro blog, adesso invece sono passati a, diciamo, a certe vie di fatto che sono tipiche, tra l'altro, come dicevamo prima, insomma, in queste situazioni. Ci risulta che tu ultimamente hai introdotto nella tua ricerca dei nuovi criteri che ti hanno portato a condurre le cosiddette previsioni sulle scie chimiche. Io mi ero anche appuntato da qualche parte sia la definizione esatta che il sito dove fai questa cosa. E tra l'altro abbiamo notato in diversi che queste previsioni sono clamorosamente precise, insomma. Ecco, ci vuoi parlare un po' di questa cosa e come fai a fare queste previsioni, su che cosa ti basi, quali sono i ragionamenti che ci stanno dietro e soprattutto è stato questo tuo nuovo metodo di ricerca a scatenare l'ira dei debunkers? Sì, è vero, c'è un salto di qualità dovuto al fatto che la nostra attività è uscita fuori da quello che è il range tipico della rete e della pubblicazione di articoli che, pur essendo spesso, io penso, interessanti, anche perché traduzioni di ricerche statunitensi e inglesi, chiaramente il salto di qualità è stato quello di, era un po' di tempo che ci pensavo, però chiaramente è un lavoro impegnativo. Dover scrivere delle previsioni in macchina ogni 3 giorni, anche perché comunque io e il fratello facciamo tutto da soli, quindi è una cosa, è un impegno, è un onere, però è stato anche il campanello di allarme che ha messo subito sull'allerta. Ricordo che in questi giorni, immediatamente dopo la pubblicazione dell'articolo fatto che io sia stato messo sotto indagine, abbiamo avuto le visite del Ministero dell'Interno, del Ministero del Tesoro, del Comando Generale dei Carabinieri, quindi mi sembra che evidentemente ci sia un certo prurito in alcuni settori. E il prurito ha cominciato a nascere proprio dai siti meteo ufficiali, quelli che io definisco di regime, i quali hanno cominciato a verificare che alcuni lettori si sono spostati via sul nostro blog e hanno cominciato non solo a visitare, a leggere con estrema così, frequenza il nostro blog sulle previsioni meteo, ma hanno cominciato anche a commentare sui blog ufficiali, scrivendo che evidentemente le loro previsioni erano sempre sballate e che comunque se si andava a visitare i blog di Tanchereremi le previsioni erano più azzeccate. La cosa che poi ha fatto uscire proprio l'acqua dal vaso è stata quando noi di Tanchereremi unici abbiamo previsto le alluvioni nel Levante Ligure, mentre sia la protezione civile sia i servizi meteo avevano previsto delle piogge nel ponente ligure. Noi invece abbiamo previsto che le piogge nel ponente ligure sarebbero state impedite e che quindi ci sarebbe stato un pericolo di alluvioni nel Levante. Così si è verificato, tanto che addirittura anche Massimo Mazzucco vi ha scritto un articolo, no? Qualcuno lo aveva previsto stesso. E quindi e quello è stato, diciamo, il massimo della sopportazione per questi enti e questi disinformatori prezzolati che hanno spesso considerato il nostro lavoro come un lavoro sul quale tenere un certo controllo, sul quale farsi anche due risate volendo, ma che comunque tutto sommato non costituiva pericolo perché si trattava di materiale, di complottisti, tra virgolette, come ci definiscono loro. Il nocciolo è che se tu osservi il cielo e vedi quello che fanno e capisci, comprendi quali sono le metodologie di lavoro delle attività aerosol clandestine, ACACI e chimiche, e perché in talune circostanze irrorano taluni elementi igroscopici, e perché in alcuni orari lo fanno, e perché lo fanno se arriva una perturbazione, e via di seguito, ti rendi conto che automaticamente questo è un metodo previsionale. Essi stessi, cioè i centri meteo nazionali gestiti dall'aeronautica militare e che quindi prendono le veline e le trascrivono sui vari servizi meteo televisivi locali e nazionali e sui siti ufficiali sul web, che tra l'altro lucrano molto su questo argomento, cioè le previsioni meteo sono un bacino di utenza notevolissimo, sul quale poi c'è anche un buon ritorno da un punto di vista degli sponsor e tutto il resto, e quindi questi siti meteo campano in maniera molto buona sulle previsioni meteo. Ma queste previsioni meteo come le fanno? Le fanno perché arrivano le indicazioni dell'aeronautica militare, la quale dice venerdì innocue velature. Innocue velature, che significa? Andiamo a vedere su un manuale di meteorologia di 30 anni fa se esiste il termine innocue velature. Non c'è. Allora tu guardi e quel giorno lì ci sono le innocue velature, ma da che cosa vengono? Dal passaggio di aerei che oscurano il sole, con scie di tipo persistente se c'è una perturbazione, con scie di tipo non persistente se c'è alta pressione e quindi non è necessario usare prodotti ad alto livello igroscopico. E quindi automaticamente se fai 2 più 2 uguale 4, le innocue velature sono previste perché i centri meteo hanno l'informazione che tale giorno passano gli aerei a oscurare. Diventa ancora più cattiva la cosa quando il centro meteo tal dei tali scrive la perturbazione è stata completamente assorbita da un'area di alta pressione che l'ha incredibilmente distrutta totalmente. Poi vai a vedere nei fatti e ti rendi conto sia dalle satellitari sia nell'osservazione diretta che non è stata l'alta pressione a eliminare la perturbazione, ma è stato il passaggio di aerei che hanno creato una cappa chimica che ha deviato o assorbito la perturbazione. Allora lì vedi che non è l'incompetenza del meteorologo, ma è la mala fede del meteorologo, perché il meteorologo sa, è al corrente delle operazioni militari e non solo tace, ma inganna i propri lettori con delle previsioni meteo, come dicono loro, farlocche, queste sì, cioè delle previsioni meteo completamente campate in aria e che io definirei decisioni meteo, non previsioni meteo. Poi è inutile che si lamentano se c'è la siccità e non piove e la perturbazione è un anno che non arriva come mai, non raccontate balle, perché la verità è che voi sapete perché non piove e perché in talune circostanze le perturbazioni vengono completamente distrutte, quindi non raccontate balle. Allora, siccome queste cose noi di articolo in articolo sul blog meteo le abbiamo scritte, spiegate e descritte nei dettagli, questi si sono incazzati e hanno deciso di segarmi le gambe con un processo penale. Certo, certo. E tra l'altro questo termine innocue velature un po' suona come una presa in giro e un po' anche ha un suono, diciamo, inquietante, perché di innocuo, se si tratta di prodotti chimici che vengono irrorati, sì, c'è ben poco, sì, in sostanza. E tra l'altro la cosa importante è questa, cioè il linguaggio orwelliano che usano i meteorologi è un linguaggio che va compreso e analizzato e spesso interpretato al contrario di quello che dicono. come giustamente tu dici, innocue velature. Allora, innocue velature vuol dire che non sono innocue, perché se scrivono che sono innocue vuol dire che ti devono avvertire che non sono innocue, ma se ti avvertono significa che forse sono dannose. Oppure in un altro caso descrivono stratificazioni alte in quota. Allora, siccome si tratta, le famose innocue velature sono velature a bassa quota, a circa 2000 metri di quota, comunque all'altezza dei cumuli, perché man mano che queste velature, queste scie vanno a toccare i cumuli, li distruggono, quindi sono a quota cumulo. Allora, se loro dicono stratificazioni alte e sottili, vuol dire che non sono alte, ma sono basse. E quindi questo è un altro termine che va preso in considerazione. Ultimamente, visto che noi abbiamo continuato a perculare, scusatemi il termine, queste definizioni orwelliane, traducendole, come diciamo noi, e a questo punto diciamo, domani sono previste non innocue velature, ma mortali velature, allora loro sono in difficoltà e non possono spesso usare questo termine, perché se no ci danno, da quello che pensano loro, ci danno troppe indicazioni, cioè ci aiutano. E allora, adesso si sono inventati un altro termine, siccome in questo periodo c'è l'alta pressione, quindi alla mattina, come anche alla sera, si formano delle nebbie pesantissime, puzzolenti di biossido di zolfo, che tutto sono tranne che nebbia da umidità, adesso le chiamano nubi marittime. E questo è bellissimo, perché è veramente ridicolo, in quanto che di nubi marittime assolutamente non si tratta, ma si tratta di basse nebbie che vengono a formarsi durante la prima mattina, perché durante la notte, se c'è qualche formazione nuvolosa, la distruggono con questi prodotti igroscopici. Quindi si vanno a formare queste masse dense sul mare, che non sono nubi, ma è nebbia, nebbia di ricaduta, e loro le chiamano nubi marittime. Allora, veramente, io non so più se devo ridere o piangere, ma questi sono veramente dei criminali, perché è vero che adesso la passano liscia, ci guadagnano anche, vanno, fanno le interviste, se ne vanno in giro col cravatino e compagnia bella, però ci sarà qualche giorno, prima o poi, che questi dovranno rendere del reato che stanno essi commettendo adesso, cioè quello che è favoreggiamento a tutti gli effetti, perché loro stanno adesso coprendo, appoggiando definitivamente, non col silenzio, ma addirittura con la disinformazione istituzionalizzata, stanno nascondendo delle operazioni che provocano morte, cioè morte e malattie. Rendiamoci conto che in Francia, era uno studio scientifico che è stato pubblicato qualche settimana fa, sono aumentate in maniera esponenziale i malati di Alzheimer, e la cosa straordinaria, perché ricordiamoci che l'Alzheimer fino a 20 anni fa era definita la malattia della quarta età o demenza senile, quindi demenza della vecchiaia, l'Alzheimer è arrivato a colpire anche ragazzi di 13 anni. Ma, e poi le analisi nei cervelli dei morti, dei cadaveri di questa malattia, hanno evidenziato quantitativi enormi di alluminio. Certo. E allora, questo alluminio da dove arriva? Senti, arriva dalla produzione delle torte? Rosario, scusa, leggevo prima sulle chat di Mille Mikes, un ascoltatore ci chiedeva se ci sono stati recentemente dei casi di Morgellons anche in Italia. Ne sai qualcosa? Sì, già da diversi anni. Noi abbiamo contatti con diverse persone, contatti non solo epistolari, tra l'altro alcune persone sono anche giovani, c'è un range completo, cioè ci sono persone di mezza età, ci sono persone giovani, ci sono persone anziane, di vari gruppi sociali. E sono persone che hanno avuto anche la conferma ufficiale da parte del loro medico che si tratta di morbo di Morgellons. Io voglio ricordare che innanzitutto ci sono degli studi che sono stati recentemente pubblicati che confermano che il morbo di Morgellons non è una malattia, come dicono gli statunitensi, delusional, cioè non è provocata da una così da pazzia, da follia. Non è una malattia immaginaria, come dice Attivissimo, anzi Paolo Attivissimo spiega, il morbo di Morgellons è una malattia che in realtà non esiste, perché i malati alle volte hanno dei figli del pullover che gli entrano nella carne, Allora, siccome di prude si grattano, si creano delle ferite e quindi in realtà non è il morbo di Morbillon, ma sono questi malati, queste persone che si sono grattate troppo. Quindi questa è la spiegazione scientifica del CICAP, tra l'altro. Io di fronte a spiegazioni di questo tipo, che oltretutto sono stupide, mi scandalizzo anche perché sono crudeli nei confronti degli ammalati. Ricordo che in Germania, ma anche negli Stati Uniti, è capitato spesso, recentemente una signora malata di Morbillon, lasciata logicamente sola, anche dai medici, si è suicidata. Cioè, lei per protesta ha detto: io mi suicido per protesta, perché non mi considera nessuno, nessuno vuole vedere neanche da vicino i filamenti che escono dalla mia pelle. Tra l'altro uno scienziato, un ricercatore statunitense che si chiama Waymore ha studiato questi filamenti che fuoriescono dalle ferite dei malati di Morbillon, se li ha fatti analizzare dall'FBI e ha verificato che questi filamenti non corrispondono con ben 880 tipi di strutture filamentose o comunque di tessuti o qualsiasi altro materiale presente attualmente in produzione nel mondo. Quindi questi filamenti in realtà non esistono, esistono solo perché escono dalle ferite di questi malati. È una malattia terribile che in realtà poi, secondo le ultime acquisizioni, è paradossalmente una malattia che innanzitutto la definirei una nanopatologia, perché è derivata dall'assorbimento di nanoparticolato intelligente che viene appunto disperso in atmosfera, e poi vi spiegherò perché. Questa nanopatologia è una reazione da parte di alcuni soggetti, cioè paradossalmente i soggetti che si ammalano di morbo di Morbillon, che quindi conclamano la presenza di questi filamenti nel nostro organismo, perché tutti siamo contaminati da questi filamenti nanotecnologici, questi filamenti che fuoriescono dimostrano che il sistema immunitario di questi malati funziona, cioè riconosce il corpo estraneo e, come naturalmente avviene, cerca di espellerlo. Noi invece, che apparentemente siamo sani, se facciamo delle analisi delle urine, per esempio, senza metterle in centrifuga, noteremo che abbiamo anche noi questi filamenti nelle urine. E quindi questa è una prima traccia, ma la presenza di questi filamenti si ritrova anche in altri organi, si trova nell'intestino, si trova nello stomaco, si trovano nel fegato. E molti ricercatori l'hanno dimostrato attraverso analisi microscopiche. Però noi non ci ammaliamo perché il nostro sistema immunitario non li riconosce e perché il nostro organismo si sta abituando ad una sorta di modificazione genetica, perché ci sono la bellezza di circa una quindicina di brevetti sulle nanotecnologie che prevedono una ricombinazione del DNA attraverso la produzione di filamenti a base di carbonio. Quindi la nanotecnologia basata sul carbonio è diventata oggi un business da parte di molte università, molti centri di studio, per la creazione di strutture che ufficialmente servono a manipolare un organismo vivente per curarlo. In realtà poi però cosa succede? Che in ambito militare, come già scritto nel documento Dominare il clima entro il 2025, queste nanotecnologie vengono disperse per il controllo del clima. Quindi, siccome queste nanotecnologie, in pratica comunicano tra loro, sono praticamente intelligenti e funzionano proprio con il protocollo wireless 811G, queste wireless funzionano spesso al posto delle radiosonde che vengono lanciate normalmente coi palloni. Quindi ci sono anche dei documentari americani, non sto raccontando delle storie, basta documentarsi. Quindi al posto delle radiosonde vengono usati milioni di smart dust o MEMS. La smart dust appunto è la polvere intelligente, oppure viene definita MEMS, quindi micro electromechanical sensors. Allora questi sensori nanoscopici che hanno le dimensioni della polvere hanno la capacità di restare in atmosfera per un certo periodo, poi però ricadono al suolo, quindi finiscono nell'acqua, finiscono sul cibo, finiscono nel terreno e comunque vengono inalate. Queste nanotecnologie, una volta inalate, e siccome sono ricombinate, perché poi c'è tutto uno studio sia militare che delle farmaceutiche, quindi qua c'è dentro un po' di tutto a livello di interessi, ci sono sperimentazioni che vengono fatte, tant'è che sono state ritrovate anche cellule di globuli rossi essiccati negli organismi di questi malati di Morgan, di Morgellons, e sono cellule di globuli rossi che sono geneticamente modificate, quindi da qualche parte arrivano, certamente non arrivano dalla fata turchina, ma evidentemente arrivano dal cielo. Allora queste cose vengono inalate e creano una modificazione progressiva del nostro DNA. Poi non parliamo poi delle cose più terra terra, e chiaramente l'inalazione di nanoparticolato PM2 è estremamente dannoso per il sistema linfatico, e quindi via di linfomi, appunto, via di leucemie, tumori, e per non parlare poi del bario, che è il componente principe in quanto massimamente igroscopico ed elettroconduttivo, il quale provoca problemi ai muscoli e al cuore. Vedi che per esempio nell'ultimo periodo è incrementato il numero delle persone infartate anche in giovane età. Quindi questo è il quadro. Logicamente tutto verrà sempre definito come fantasie di un complottista, però i dati di riferimento ci sono, basta andare a cercare sul nostro blog, e d'altronde basta osservare il cielo per vedere quello che combinano, e per capire che effettivamente il nostro clima per scopi militari e civili, nell'ambito dell'azienda OGM, nell'ambito delle aziende farmaceutiche, viene pericolosamente modificato. La siccità incombe e non è un caso. Mi scandalizza che gli scienziati adesso raccontino che la siccità avviene per motivi completamente diversi da quelli che sappiamo noi, che per esempio la corrente a getto, adesso finalmente ammettono che la corrente a getto si è spostata, ma spiegano che si è spostata perché c'è un'elevata umidità atmosferica. E io direi che l'umidità atmosferica è veramente bassa, tant'è vero che le nubi non si formano, le nubi si formano se c'è umidità. Allora stanno raccontando un sacco di storie per ingannare la gente, ma fino a quando la inganneranno non so, perché chiaramente ci dovrà essere un punto di non ritorno. Quel punto di non ritorno noi ci siamo ormai vicini, perché i biosistemi sono estremamente al collasso. Gli esseri umani chiaramente non vivono una buona situazione, perché in mancanza di umidità, tra l'altro, c'è anche mancanza di ossigeno. Tutte queste conseguenze prima o poi qualcuno le dovrà palesare, qualcuno dovrà pagare per quello che sta succedendo, certo. Qualcuno dovrà fermarli. Certo. Beh, guarda Rosario, qua stanno piovendo una valanga di domande, e io non inizio neanche a portele, perché non abbiamo più tempo. Me ne rimane una che credo sia interessante, e le domande spaziano tra vari argomenti, dal perché i medici per esempio non denunciano, o se i medici denunciano e segnalano anomalie patologiche di questo tipo, a se Paolo Attivissimo è un comico, perché il nostro sistema immunitario non reagisce a queste sostanze, insomma cose che sono comunque... Intanto, per esempio, la questione del sistema immunitario è abbastanza semplice anche da spiegare, perché bisogna innanzitutto dire che i nostri linfociti, i nostri anticorpi, non sono in grado di distruggere le particelle metalliche, quindi se noi assorbiamo attraverso l'aria, il cibo e l'acqua nanoparticelle di metallo, che poi tra l'altro sono il primo risultato della combustione degli aerei, se questi aerei volano a bassa quota, ammettendo anche che non rilasciassero nessuna sostanza chimica tossica, il solo passare a bassa quota riconduce ad una ricaduta di PM2, che è il classico risultato della combustione di qualsiasi jet, perché quando si parla di inquinamento dovuto all'automobilismo, al traffico automobilistico, lì si parla di PM10. Qua invece si parla di PM2, il PM2 è estremamente dannoso, perché il sistema linfocitico non identifica il metallo, e quando anche lo fa lo trasporta attraverso il sistema circolatorio, e siccome il linfocita ha un ciclo di vita, cosa fa? A un certo punto scoppia e quindi rilascia la nanoparticella in un'altra zona del corpo, quindi nel fegato, nel cervello e via dicendo. Per questo queste nanoparticelle che noi non vediamo e non sentiamo sono estremamente dannose il sistema linfatico, del sistema polmonare, per la salute in generale, perché vi è un aumento di tumori, di malattie neurodegenerative, di linfomi, di infarti. Queste sono le conseguenze della continua passaggio di aerei militari a bassa quota, a 2000 metri circa e anche meno, e di aerei civili che fanno il resto del loro lavoro alle quote di crociera, quindi a 8000-13000 metri. Tutto quello che viene rilasciato in atmosfera ricade al suolo nell'arco delle 24-36 ore, quindi noi lo respiriamo, lo mangiamo e lo beviamo, e il sistema immunitario non lo riconosce perché sono metalli e non li può distruggere. Certo. Del resto queste cose le abbiamo comunque anche già affrontate in altre puntate assieme a te. Io volevo chiederti un'altra cosa invece, che è stata un tema di attualità fino a 15-20 giorni fa, adesso è diventato un ricordo di cui molto rapidamente la gente perderà memoria, e mi riferisco alle particolari, diciamo, bizzarrie climatiche alle quali abbiamo assistito. L'Italia sotto la neve, a volte in certe regioni dove la neve magari non è così abituale, abbiamo visto i 3 metri di neve in Romagna. Insomma, sono situazioni di cui si ha ben poca memoria. Ecco, tu prima parlavi di correnti a getto, eccetera, parlaci un po', ma su questi ultimi capricci climatici, diciamo, di metà febbraio. Ovvio, io ritengo tu abbia la tua spiegazione per coinvolgere i nostri diciamo irroratori clandestini. Guarda, mentre i servizi meteo dichiaravano in pompa magna su tutte le TV che avevamo la famosa aria fredda che arrivava dalla Siberia, il famoso vento di Buran, in realtà noi avevamo scoperto che quest'aria fredda non arrivava da est, ma arrivava da ovest, anzi precisamente da nord-ovest, e avevamo notato che la corrente a getto, la jet stream polare, si era spostata deviando in una lingua tipo quella di un serpente da un lato verso la parte superiore dell'Islanda, per poi ricadere verticalmente verso l'Europa centrale e l'Italia, e un'altra parte è intrappolata sopra l'Africa settentrionale. Questa condizione, quindi questo spostamento della corrente a getto, ha provocato un afflusso di aria gelida dal polo nord, che ha provocato quello che abbiamo visto, cioè chiaramente le precipitazioni, se erano piovose con quella temperatura, sono diventate precipitazioni nevose. La cosa veramente scandalosa è che i centri meteo fino alla fine hanno continuato a raccontare la storia del Buran quando sapevano che non era vero. Infatti c'è un sito che scrive: gran gelo in Europa, gelo in Italia, così possiamo riassumere il tempo in questo fine settimana. Il Buran, il vento proveniente dalla steppa russa, non concede sconti a nessuno ed è pure atteso un ulteriore calo delle temperature. Quindi, ragazzi miei, qua noi siamo in un mondo orwelliano. I media, per rispondere alla domanda di prima, non parleranno mai di queste cose, perché i media sono il sistema attraverso il quale scusate il gioco di parole, attraverso il quale i governi controllano la popolazione. Per controllare la popolazione bisogna avere il controllo dei media. Questo non lo dicono io, ma lo diceva Kissinger, per esempio, che tra l'altro è consigliere del Papa. Quindi perché si è spostata questa corrente a getto? La corrente a getto non si è spostata da sola, non ha deciso di spostarsi da sola. Le correnti a getto sono due: una è, appunto, come dicevo, la corrente polare, un'altra è la corrente a getto che scorre nella zona inferiore del globo terracqueo, e le correnti a getto sono delle correnti che volano ad altissima quota, a circa 20 km di altezza, soffiano dei venti fortissimi e portano quantitativi di umidità e di acqua elevatissimi. In pratica le correnti a getto presiedono al clima sulla Terra. Le correnti a getto hanno un flusso che è invariato da milioni di anni, un flusso ondulatorio che è invariato da milioni di anni. Si sono spostate solo in due casi: In un caso è stato notato lo spostamento delle correnti a getto quando gli americani notarono che vi era un'attività di onde a bassissima frequenza da parte dei russi, il famoso picchio russo. E un altro caso è quando i riscaldatori ionosferici, ce ne sono almeno 20 disposti in tutto il mondo, quindi non solo ARP, riscalda la ionosfera e la deforma. Deformando la ionosfera, questa crea una sorta di curvatura che fa da guida e fa spostare la corrente a getto. Quindi la corrente a getto si è spostata per una manipolazione opportuna attuata per scopi militari o civili, non lo so, comunque è uno spostamento artificiale. Questo è il motivo per cui i media e i meteo ufficiali non hanno mai spiegato alla popolazione italiana che il freddo veniva per lo spostamento della corrente a getto, altrimenti avrebbero dovuto spiegare perché questa si è spostata. Tra l'altro i tedeschi hanno analizzato la neve ed hanno notato che questa neve contiene elementi che normalmente non dovrebbe contenere, quindi alcuni metalli sono stati ritrovati, alcuni strani metalli particolari sono stati ritrovati, alcuni elementi molto simili a quelli che si ritrovano a fuoriuscire dalle ferite dei malati di Morgellons, dei cristalli un po' particolari, nanotecnologici. Quindi io presumo, tra l'altro un ricercatore molto in gamba ha evidenziato che le precipitazioni nevose non si sono verificate nelle zone in cui ci sono le basi militari in Italia. Comunque presumo che questa neve sia stata poi sfruttata dispergendo del materiale elettroconduttivo in atmosfera, così come viene sempre fatto, e poi questo materiale è ricaduto insieme alla neve. Tra l'altro in quel periodo abbiamo notato un uso intensivo di ship trains, che sono in pratica materiale che viene sparato in atmosfera, in bassa atmosfera, comunque sempre a quota cumulo, perché è lì che gli serve principalmente, attraverso dei natanti, delle imbarcazioni, proprio perché comunque, data la presenza di una perturbazione molto, molto grossa, probabilmente era difficoltoso usare solo gli aerei. Ecco, c'era qualche sospetto che ci fosse lo zampino di questo genere di attività, insomma, vedo che insomma non sono l'unico malizioso su queste cose. Bene, Rosario, guarda, le domande da farti sarebbero ancora tantissime, ma ormai abbiamo abbondantemente sforato le ore 24, che è il nostro consueto termine della trasmissione. E io non so, ti chiederei se hai qualcosa da aggiungere prima di chiamare la chiusura della trasmissione. Quindi non so, c'è qualcosa che vuoi semplicemente aggiungere? Semplicemente posso segnalare che il nostro sito di previsioni meteo è su tankerenemymeteo.blogspot.com, tankerenemymeteo, tutto attaccato, .blogspot.com, quindi sempre su piattaforma blogger, che è la più semplice da realizzare. E niente, ogni 3 giorni ci sono le previsioni, così come le fanno i centri meteo nazionali, solo che noi le facciamo a modo nostro. Poi, per quanto riguarda la questione processuale, io andrò avanti lo stesso, conto logicamente sull'aiuto di coloro che ci vorranno dare una mano per affrontare le spese legali, e via così, fin quando ci lasciano la possibilità di stare ancora in salute, noi andiamo avanti. Io vi ringrazio tutti voi, siete stati sempre molto cortesi, e poi ringrazio te Michele per l'ottima mediazione, per le domande molto ben poste. Quindi niente, appuntamento alla prossima volta allora. Grazie Rosario, no, anzi guarda, sono io che ringrazio te, naturalmente non finiremo mai di fare questo siparietto di ringraziamenti, però veramente sono sentiti e sono... Scusa, grazie anche al tecnico audio Massimo Del Gireno. Ah, sicuramente, non ne potremo mai fare a meno. Comunque, ecco. Comunque prima di darti definitivamente la buonanotte a te e a tutti i nostri radioascoltatori, volevo appunto anch'io ricordare che è importante questa questione del sostegno sia morale che economico. Naturalmente ognuno per quello che può, per il tempo che ha e per le possibilità che ha, e lo può fare attraverso il sito di Rosario, che ci ha ricordato essere appunto www.tankerenemy.com, ma se cercate Rosario Marzano su Google lo trovate, state attenti che trovate comunque anche le simpatiche dediche che gli fanno i suoi detrattori, però non è difficile scoprire il suo blog e trovare le informazioni di cui abbiamo parlato questa sera. Bene, io direi che è giunto il momento di congedarci da voi, come al solito da Michele Valeriani è tutto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre nei soliti orari qua su Radio UFOcast, per affrontare un nuovo ed interessante argomento, per cui buonanotte a tutti i nostri cari radioascoltatori e buon weekend a tutti.